Achtung, Liebfrau Milch in Porsche. Um paar Vorsprung durch Technik. Donner und Blitzen, britischer Architekt. Tomorrow belongs to me. Schwein und Dummkopf, ein Bär bitte. Buonasera e benvenuti a questa nuova trasmissione di Maite FM. Abbiamo avuto qualche intralcio all'inizio di questa diretta perché le nostre, insomma, i nostri mezzi tecnici sono un po' così, sono un po' umorali e non si sa mai come bisogna gestirli. Magari stanno soffrendo anche loro molto il caldo di questi giorni. Infatti nel pomeriggio caldissimo, più o meno 32 gradi, qui al TPO Radio Kairos di Bologna, Claudia Mighty Mau è qui per parlare di un evento proprio di mezz'estate, dove sarà bello essere in campeggio in riva al mare, ovvero del Siren Festival. E seguiremo oggi la programmazione della prima giornata vera e propria di concerti, che sarà il venerdì 27 luglio, e seguendo rigidamente l'ordine di cartellone arriviamo ad una vecchia conoscenza, ovvero Cosmo. Ho voglia di ballare, solo di ballare. Ho voglia di sentirmi ritrovarmi. Magari avervi tutti qui vicino per sorriderci mentre si parte. Ho voglia di ballare, ho voglia di viaggiare. Ho voglia di non farmi più scappare. Capire tutto senza domandare e riunire dei frammenti tipo questo, tipo questa mano, questa gente, questo odore di sudore, questa casa, questo te, queste scarpe, questi bassi, questo specchio, queste strade, queste grida di bambini, questo sputo sulla terra. La verità è quella che stai provando. Ho voglia di ballare, ho voglia di capire a che punto questo corpo può arrivare, fino a quando riusciremo a non dormire, a non morire. Ho voglia di ballare, ho voglia di giocare con le prospettive, col tempo le sue illusioni, senza sentirsi coglioni. Guarda che facce dentro lo specchio, dentro il tuo occhio si scioglie il ghiaccio. E sta succedendo anche a me. L'amore, secondo Cosmo, un pezzo veramente estivo. Il disco è uscito all'inizio di gennaio, ma Occhio veramente lungo, una canzone appunto sulla nascita di un amore, la gioia incontenibile e anche l'aumento dell'autostima che ciò provoca. Cosmo, ovvero Marco Bianchi, ormai lanciatissimo come solista dopo essere stato nei Drink to Me, nato ad Ivrea nell'82. I Drink to Me hanno fatto 4 album dal 2008 al 2014, l'ultimo live insieme ufficialmente, proprio di scioglimento a livello di attività live, è stato al Spring Attitude del 2017, dove hanno detto che comunque suoneranno ancora insieme, facendo soprattutto progetti strumentali tipo colonne sonore. Di farmi attraversare dal piacere, ci cerchiamo con lo sguardo per scherzare, per sapere se va tutto bene. Vedi questa mano, vedi questa gente, questo odore di sudore, questa casa, questo hotel, queste scarpe, questi bassi, questo specchio, queste strade, queste grida di bambini, questo sputo sulla terra. La verità è che sono parti di te. E quando arriva la scossa ci vogliamo abbracciare. Ciao, cosmo, l'amore. Uno dei molti pezzi belli dell'ultimo album Cosmotronic, seguito da un tour trionfale in Europa e in Italia, che spesso, come a Bologna, ha richiesto una doppia data. Un album che vede una prima parte più cantautorale e una seconda parte invece più dedicata al dance floor. E comunque anche le basi sono fatte veramente molto bene. E lo show è un vero show da club. Infatti c'è anche un intermezzo in cui scompaiono i due percussionisti che lo accompagnano, uno dei quali mi pare proprio batterista di Drink to Me, e lui fa proprio un'attività da DJ, e io ammiro tantissimo il suo modo leggero di saltellare in continuazione Cosmo. E adesso, appunto, seguendo l'ordine del cartellone, arriviamo a dei mostri sacri, insomma, per chi ama certo tipo di musica indie, dream pop o shoegaze, e sono gli Slow Dive con Don't Know Why. Dove suoneranno tutti questi bei nomi che ascolteremo in questa prima puntata speciale, a cui la settimana prossima ne seguirà una seconda, ognuna dedicata a una delle due giornate veri e propri live. Si svolgerà a Vasto, per gli amici l'Uvast, ridente località collinare con una parte marina, Vasto marina, sul nostro mare Adriatico, in Abruzzo, quasi al confine con il Molise, quindi con il nulla praticamente, scherzo. E per il quinto anno, appunto, si svolgerà il Siren Festival ad opera di DNA Concerti. Sempre ringrazio Anna Chiara, una cittadina meravigliosa come lo sono tutte le cittadine del centro dell'Adriatico, e io lo dico perché ne so qualcosa. Che dire invece degli Slow Dive? L'ultima volta li abbiamo ascoltati per la puntata del Best Pitchfork 2017. Non l'abbiamo potuti vedere al Locomotive perché è stata una data che è andata velocissimamente sold out, credo che fosse l'inizio di marzo, ma l'avevamo già visti nel momento della prima reunion live che hanno fatto nel 2014, partecipando ai due Primavera Sound Festival di Barcellona e di Porto, dopo che, appunto, nati nell'89 a Reading dal connubio principalmente di Rachel Goswell con il Halsted, hanno fatto un primo album nel 91, Just for a Day, e poi Souvlaki del 93, che ha segnato proprio un'epoca, poi Pygmalion nel 95 e poi il cosiddetto hiatus, ovvero una pausa fino alla reunion live di cui abbiamo detto, e poi un nuovo album nel 2017 omonimo, Slow Dive, come dire siamo tornati, da cui appunto stiamo ascoltando questo pezzo, Don't Know Why. inconfondibile suono e timbro e firma della Lipuna. Deep Dream, che aspettavo tanto che facessero live la scorsa settimana al Biografin Park, i concerti organizzati al Parco del Cavaticcio in occasione del Biografin Festival dal Locomotive, che li aveva già ospitati per l'Express Festival in celebrazione del decennale del locale nello scorso novembre, ma non hanno fatto questa bellissima Deep Dream tratta da Two Windows del 2017 perché stanno suonando tanto e hanno anche già fatto dei pezzi nuovi. Quindi anche la Lipuna nella prima giornata del 27 luglio, venerdì, biglietto giornaliero 40 euro, delle due giornate 60 euro. Probabilmente la cifra che si spende in uno stabilimento balneare affittando due lettini, un ombrellone, facendo un pranzo di pesce, ma solo la frittura, perché sennò andiamo anche oltre, per un festival, il Saren Festival, che nel 2014 ha iniziato col botto. Ricordiamo alcuni dei nomi: Giardini di Miro, Alexis Taylor, degli Hot Chip, John Grant, Mogwai, The National, Tycho, Fuck Buttons e ovviamente tanti nomi della scena italiana come Joy Cat, Adriano Viterbini, Jennifer Gentle, DJ set di Umberto Palazzo, che anche lui è di casa lì. E poi appunto, volendo coniugare la scena indie internazionale con la scena indie italiana, ma anche pop italiana, e la scena del clubbing, c'era anche il DJ set di Giorgio Gigli e di Jolly Mare. E poi niente popò di meno che proprio da Buon Gustai, Anna von Hauswolf. E siamo arrivate a Mouse on Mars, che non sono i Modest Mouse, questo lo dico a me stessa, duo di musica elettronica storico formatosi a Düsseldorf nel 93. Jan Sandberner di Colonia e Andy Thoma di Düsseldorf, IDM, krautrock ovviamente, breakbeat e ambient. Per questo album appena uscito nel 2018, a 6 anni di distanza dal precedente, gli ultimi 3 hanno avuto una distanza di 6 anni l'uno dall'altro, Dimensional People, un disco abbastanza ostico per le mie orecchie, con molte collaborazioni. E infatti stiamo ascoltando un pezzo che si chiama Foul Mouth, che vede la partecipazione di Zach Condon in più di un brano dei Beirut, come anche Justin Vernon, i fratelli Dessner, The National, che non so veramente come trovino il tempo di fare tutto ciò, e poi da Spank Rock a Lisa Hannigan, e questo appunto è Foul Mouth. Si cambia passo e atmosfera con questo suono veramente molto caldo e americano di Riley Walker, classe 89 dell'Illinois, un autore molto prolifico, EP dal 2011 e poi album dal 2014. Ad ascoltarlo così in cuffia mi fa pensare ai primi pezzi di Jonas Police Woman, e anche se vabbè la voce non è la stessa, al suo grande amore perduto, ovvero Jeff Buckley. In Castle Dome. po' persa nell'ascolto di questa In Castle Dome, pezzo di apertura del suo ultimo album, Deaf Man Glance, ovvero l'occhiata, lo sguardo del sordo. Dicevo molto prolifico perché questo è il quinto album dal 2014, tre in due anni, ovvero due album usciti sempre nel 2015, poi un altro due anni fa e adesso Deaf Man Glance, Riley Walker. Ancora per raccontare la storia del Siren Fest, essendo stato creato e organizzato da DNA Concerti, essendo un'agenzia di booking e di organizzazione eventi, poter presentare e promuovere ma anche regalare appunto ad un pubblico anche in estate, anche al mare, anche in una situazione diversa dai soliti club, i nomi del proprio insomma roster, come si dice, anche se si dice insomma per le etichette discografiche, è veramente una cosa molto bella. E infatti nel 2015 James Blake, Verdena, John Hopkins, San Kilmon, antipatico, Clark, Cola Pesce, Scott Matthew, io sono un cane, Indian Wells, la batteria, il gruppo di musica strumentale abbastanza anni 70-80, tipo da colonne sonore dei film polizieschi, tipo con Ermon Nezza di Roma, che abbiamo potuto vedere infatti lo Spring Attitude. Questa era l'edizione del 2015 e dopo Riley Walker passiamo ad uno stile uguale, quasi uguale, quindi rimaniamo con la stessa atmosfera, un bellissimissimo pezzo di apertura, Seasons, del primo disco a proprio nome di Neil Halstead dei Slowdive. Era il 2001, ricordiamo, un concerto molto bello, insomma significativo sempre per la nostra biografia, alla Casa 139 di Milano. Questa è Seasons. Halstead, che appunto essendo presente con Slowdive, hanno detto dai, fai anche un concerto da solo e chissà che non arrivi anche un altro disco. Non era questo l'unico progetto al di là degli Slowdive, perché appunto appena subito lo scioglimento o la messa in pausa del gruppo principale, sempre con Rachel Goswell, sono nati i Mojave 3. Anche qui ricordiamo dei bellissimi dischi di bellissimi anni, come diciamo, con Olivia, cui l'indie era indie. E Neil Halstead, considerato uno dei più grandi autori, songwriter britannici, in una carriera solista che coniuga l'amore per la folk song di stampo più americano che british e il suo grande amore per il surf. Questi 5 anni Siren Festival si era veramente imposto come appuntamento di mezz'estate e ha dato un po' il via alla proliferazione poi di eventi simili di uno o due giorni o rassegne spalmate diciamo durante tutta la stagione, come Siren Unplugged esistono da molto più tempo, ma proprio il concetto di festival in località marittime come noi in tutti gli anni 2000 abbiamo dovuto espatriare per farcelo, andavamo sempre a Benicassim, ecco, potrebbe essere considerata vasto la Benicassim italiana, questo festival di fine luglio che nel 2016 vedeva una line-up insomma sempre di altissimo livello: Editors, Notwist, Performing Neon Golden, i Cani, Thurston Moore e Lee Ranaldo separatamente, Powell, Adam Green, No Such Thing, Rye X, Gold Panda, Cosmo, Motta, sempre appunto per attenzione alla scena italiana, anche elettronica con Yakamoto Kotsuga, a quella più indie come Is Clanciness. Vieni a rilassarti, gioia. Sempre l'ora per un po' di sana, davvero un'atmosfera marina, infatti anche il video è girato da Mischeta e le sue amichette in riva al mare. Questo pezzo freschissimo come un ananas un po' corretto per la produzione di Populous. Vieni a rilassarti, gioia. Colei che viene definita la rapper mascherata mi fa troppo ridere, in realtà sì, si copre il viso con delle mascherine, ricoprono il naso e la bocca e dei gran occhiali da sole. Ci ho messo un po' ad arrivarci a Mischeta, poi l'ho vista un paio volte dal vivo veramente recentemente, la prima volta è stata per la festa di Halloween al Covo e poi è venuta al Cassero, poi è tornata ancora al Locomotive e adesso sarei molto felice anche di rivederla ancora. Debutto del 2013 con dei brani che hanno fatto la storia: Milano Sushi e Coca, In gabbia non ci vado, Le ragazze di Porta Venezia, Il burka di Gucci. Video intelligentissimo, divertentissimo. Credo che lei sia molto intelligente. Leggere le sue interviste, c'era un'intervista su Noisy o Vice, cose così, di un pomeriggio passato dalla giornalista con Mischeta nella periferia nord di Milano. Molto molto divertente e arguto. poi questo pezzo è stato veramente, direi, la consacrazione. Era uscito un primo EP, L'angelo dall'occhiale da sera, nel 2016, poi l'anno scorso Carpaccio ghiacciato, con la partecipazione anche di Riva, anche producer molto bravo, e anche con Lim. E poi invece dopo ascolteremo cos'è che ha tirato fuori da poco quest'anno. One love, one liberty. In these times, this divide, confusion's raining down on you, on me. Live and let be the mantra of the land of the brave. Siamo passati invece al classico indie rock britannico dei mancuniani The Rain Band, fondati sì nel 2010 dal connubio di Martin Finnegan alla voce, Phil Rainey già nei Monaco con Peter Hook alla chitarra. Dopo qualche cambio di line up, adesso un five piece, un quintetto con Joe Wilson, Sam Wilson, fratelli, e James Cowell. Dal loro nuovo album uscito quest'anno dal titolo The Shape of Things to Come stiamo ascoltando Is This What You Get? Dopo The Rain Band arriviamo ad una bella scoperta in tutti i sensi, perché è carina. Viene da Guildford Nessari, di base a London, si chiama Annabel Allum, non so quanti anni abbia ma sembra pochi. Diversi singoli tra il 2015 e il 2016, Absent EP all'inizio, poi nel 2017 un altro EP dal titolo All That For What, di cui un pezzo, Rich Background, sembra che sia stato quello che l'ha fatta conoscere di più. Again. Annabelle Hallum, questo suono bello da indie rock classico e solido, questo pezzo che si chiama Emily tra parentesi. Sarà quindi anche questa Annabelle Hallum tra le novità di questo, perlomeno per ciò che mi riguarda, questo Siren Festival del 2018, 26-29 luglio, giornate di live concentrate il 27 e il 28. Siamo curiosi di sapere quale sarà il pre e quale sarà il post, ma ricordiamo che la scorsa edizione veramente dei nomi incredibili: Apparat, Arab Strap, Baustelle, Galigos Poet, Trent Möller, Cabaret Voltaire addirittura, il progetto di Emidio Clemente e Corrado Nuccini, quattro quartetti, poi gli italiani Giorgio Poi, Populus, ma anche Jenny Kvall, che ci piace tanto, Jens Lehmann, e poi tanti tanti altri giovani italiani della scena indie, come andrà Laszlo De Simone, Gazzelle, Gomma, Maiole, e non ci vedo perché è scritto molto piccolo, Persian Pelican, che mi pare che sia di Ancona o Pesaro, non lo so. E questo fine parlato dal pezzo di Annabelle Hallum, Emily, che finisce proprio così. E lo speriamo tutti, it's gonna be alright and it's gonna be okay. E appunto sulla scia di questo nuovo cantautorato italiano, pensiamo ovviamente a Calcutta, pensiamo a Giorgio Poi, pensiamo andrà Laszlo De Simone, e a questa riscoperta di quel suono di fine anni 70 che per me è assolutamente familiare, perché era la musica che sentivamo in macchina quando partivamo per le vacanze, in particolare Lucio Battisti, dell'epoca appunto di quegli anni, tipo Una giornata uggiosa, quell'epoca lì, Una donna per amico, cose così. E uno degli ultimi arrivati è il giovane Germano, che è il nome d'arte di Alex D'Andrea, romano-australiano. Ha iniziato a suonare nel 2008 con una band, Jacquerie, poi con un'altra band, Alpinismo, per cui ha pubblicato solo un EP per la 42 Records, e poi si è lanciato in questa carriera solista. I suoi numi tutelari sono Franco Califano e Il Compianto, e incompreso Enzo Carella. Questo pezzo era title track del suo album di debutto del 2017, Per cercare il ritmo. Germano. Questo pezzo molto breezy, molto fresco, sarà bello ascoltare vicino al mare. Abbiamo finito la line-up della giornata del 27 luglio del Siren Festival, quinta edizione 2018 in quel di Vasto, e ripartiamo da capo per un secondo ascolto di Cosmo, sempre tratto da Cosmotronic, disco di grande successo, tour ancora più affollato con veramente folle osannanti. Abbiamo scelto della parte, diciamo, più elettronica, danzereccia, i pezzi che da sempre ci piacciono tanto, ci piacciono di più, e li abbiamo uniti insieme, ovvero 5 Antimeridiane e Ivrea Bangkok. Cosmo. Io spero sinceramente che continui a fare pezzi così, perché, come si dice, spaccano. Ascoltarvi in cuffia, ci sono veramente dei suoni, dei dettagli da grande producer, davvero. e arriva Ivrea Bangkok, invece un pezzo contaminato da suoni dell'estremo oriente. Quasi. Suono contaminato, non so se per mezzo di viaggi diretti in Thailandia o dal fatto che Torino e insomma il suo hinterland siano ormai delle metropoli multietniche, che ne voglia dire il nostro attuale governo. Per una carriera di Cosmo, come dicevo, lanciatissima, ha fatto già due album in alternanza con il suo impegno nel Drink to Me, nel 2013 con Disordine, poi 2016 l'ultima festa che ha decretato appunto il gran successo e l'inizio di Live Sold Out, e adesso ancora di più con Cosmotronic. Siamo tornati agli Slow Dive con un altro dei singoli tratti dal loro grande ritorno nel 2017 con album omonimo, il pezzo è Sugar for the Pill. Dopo Star Roving, il singolo che avevamo ascoltato nella puntata dei migliori pezzi del 2017, Sugar for the Pill, dicevamo in realtà la nascita di Mojave 3 erano i restanti tre della band dopo l'abbandono di Scott, Saville e poi Chaplin, ma sono tornati tutti nella reunion del 2014 e poi per questo nuovo materiale originale. Finisce il secondo pezzo che abbiamo deciso di passare degli slow dive, gli alfieri dello shoegaze insieme ai Bloody Valentine, ma molto molto meno rumorosi e più romantici, soprattutto in questo pezzo, e ritorniamo in Alipuna, che solo adesso mi è venuta la curiosità, o forse lo sapevo e l'avevo rimosso, che nome è l'Alipuna? Vabbè, nato come progetto di Valéry Trebeliar, che poi ha coinvolto il suo compagno Marcus Hacker, membro dei Notwist, in cui ogni membro aveva il suo progetto, Miss John Sola, e console, eccetera, insieme a Christopher Brandner. Christopher Brandner, batterista bravissimo, e invece Florian Zimmer prima e poi attualmente Christian Hess alle tastiere. Stiamo ascoltando un altro pezzo tratto da To Windows, il loro ritorno dopo qualche anno, del 2017. Dicevo, da dove viene il nome l'Alipuna? L'Ali come soprannome nomignolo di Valéry, From Puna, e poi è rimasto solo l'Alipuna perché appunto Marcus aveva suggerito come nome della band Puna, e quindi l'Ali dei Puna, anche se invece lei in origine è nata invece a Busan in Corea. Che hanno debuttato sulla More Music, loro attuale, sempre sempiterna etichetta discografica tedesca, alla fine degli anni 90, nel 98, epoca in cui noi compravamo qualsiasi pubblicazione, qualsiasi release della More Music o della Monica Enterprise, insomma quelle etichette che hanno sonorizzato la nostra vita musicale di quegli anni, e poi Scary World Theory, e praticamente l'Italia credo che sia il paese dove hanno un seguito più grande di tutti, grazie anche al fatto dell'inserimento di Scary World Theory, appunto la canzone, nel film di Sorrentino 2004 Conseguenze dell'amore, che ha lanciato anche lui. Poi nel 2004 Fake in the Books, nel 2010, quindi già una bella distanza, Our Inventions, e ancora di più per questa nuova uscita del 2017 Two Windows, che però non vede più nella line-up Marcus Hacker, e quindi i Lalipuna sono diventati un trio. Torniamo ai Mouse of Mars, che invece hanno esordito nel 94 con un primo album che si chiamava Vulvaland. Poi ne hanno fatti altri 10, gli ultimi 3 appunto a 6 anni di distanza è arrivato l'ultimo, Dimensional People, come dicevo, con diverse collaborazioni. Ascoltiamo ancora un altro pezzo con la presenza di Zach Condon dei Beirut, ma insieme a Swamp Dog, uno storico produttore soul classe 42, attivo musicalmente fin dall'inizio proprio degli anni 70, e questo pezzo si chiama Sydney in a Cup. I like it like that. Come on, let me tell you where it's at, name of the places. I like it like that. Do y'all remember that? Ah, damn! I should be sitting talking to my motherfucker. Questa penso che sia proprio la voce di Swamp Dog. What are you gonna do with all this shit that you don't know nothing about? Just something to file away in the can. Abbiamo scelto insomma i pezzi un po' più facili, come dicevo, un po' ostico l'ascolto per me, che è un disco che parte con Dimensional People Part 1, Part 2, Part 3, poi c'è un altro pezzo sempre in due parti, mi pare, con Justin Vernon, i fratelli Dresner, Bryce e Aaron. E adesso siamo tornati a Riley Walker. E se prima abbiamo ascoltato il pezzo di apertura del suo nuovo album Death Man Glance in Castle Dome, adesso ci ascoltiamo il pezzo di chiusura che si chiama Spoil with the Rest. Thank you. do my best. Yeah, I'll spoil with the rest. Yeah, I'll spoil with the rest. Takes half shit to give a fool. And every time I get it done, whenever I do my best. Riley Walker. Il suo suono è stato descritto come fingerstyle ballads, quindi ballate piene di arpeggi, valzer psichedelici e, riferisco come lo leggo, raga inspired blues. Veramente molto gradevole, riposante, questo pomeriggio afoso, no, più che afoso, caldo, proprio caldo. Siamo tornati al quasi mio coetaneo Neil Halstead, che dopo l'esordio a suo nome nel 2001 con Sleeping on Roads ha pubblicato dopo 7 anni Oh Mighty Engine nel 2008 e poi dopo altri 4 anni nel 2012 Palindrome Hunches, da cui ci stiamo ascoltando sempre il pezzo d'inizio dal titolo Digging Shelters. My headphones on, I won't hear a sound. No, it's all broke down. Eyes out on the road, but no one comes along when you want them to. Let your head hang long. Yeah, old north wind is blowing through these cracked up walls, and you won't feel so strong. Voices on the street, yeah, it's closing time again. Thank you. building shelters in the snow, build a house of dream and domino. Noah's falling down. Got my headphones on now. Dicevamo come la carriera di Neil Halstead avesse un suono più folk, più americano, fosse imbevuto del suo amore per il surf. Infatti il secondo album, Oh Mighty Engine, è stato pubblicato dall'etichetta del suo compagno di surf, Jack Johnson. E chissà appunto se il fatto di esibirsi live, oltre all'occasione di essere già presente con Slow Dive, non significhi l'uscita di un nuovo album. Magari è già pubblica la notizia, lo sanno tutti, ma io no. E cambiamo decisamente sonorità, perché siamo ritornati a quella pazza di Mischeta che stava anticipando nell'aprile di quest'anno, ha pubblicato un nuovo album considerato appunto un album organico, un intero, dal titolo Una vita in caps lock, dove tutti i titoli, tutto il suo nome e i titoli dei suoi pezzi sono sempre tutti in maiuscolo. Molto più scuro, elettronico nella maggior parte dei pezzi, cattivo, forse con dei testi più scuri, più cinici. E poi questo esperimento, per esempio, in questo pezzo che si chiama Spleen Queen, la collaborazione con i super frenetici e rumorosi Zeus. Volevo fare la PR e invece ho scelto i BPM. E abbiamo deciso di unire un pezzo rumoroso come Spleen Queen, quello invece più morbido, After Amore. Seguimi nell'impossibile magia dell'amore. Ascolta la mia voce, guarda la luce, e se hai paura dei tuoi sentimenti, sconfiggila, non annegare. Una vita in caps lock, il vero primo album, appunto, dicevo, inteso come opera compiuta e coesa. Leggo il comunicato, quasi un concept album che sintetizza i mondi sonori dell'anima di Miss, dalla fidget house all'elettronica sperimentale, passando attraverso il post-hardcore, il noise, il trip-hop, le suggestioni afrofuturistiche, e quindi apre la sua ricerca all'esplorazione di nuove sonorità più complesse e sofisticate, e che vede anche la partecipazione della sassofonista Adele Nigro degli Any Other e di Birth. on fleek. Beat your face to the gods, but babes, you gotta open your heart to get in. Questo pezzo, che come avete sentito, vede la partecipazione di un cantante, David Ayeniwon, marchigiano, in arte David Blank, che poi è andato a studiare per, insomma, diventare un cantante a Londra a 16 anni e adesso quindi si esibisce con il nome di David Blank. Siamo tornati all'indie rock britannico derivativo dei Rainband. Dicevamo tanti singoli ed EP dal 2010 e poi fino al 2014, anzi 16, dove hanno pubblicato il primo vero e proprio album Satellite Sunrise, seguito poi quest'anno da The Shape of Things to Come, da cui stiamo ascoltando Realize. Can they come home? We all got wings to fly so high. If we can overcome the fear of the unknown, so open your eyes. It's all in your hands. The moment you realize, it's the moment you understand. So open your eyes. It's all in your Insomma, si può riconoscere proprio la matrice del posto da cui vengono. Hanno anche fatto il loro debutto live in un grande festival a Glastonbury nel 2013 e poi, una curiosità, nel 2012 hanno pubblicato un singolo, Rise Again, dedicato a Marco Simoncelli, il motociclista, come sappiamo, morto in gara. Whoa! see their soul, I can count their scars. Well, that's just how things are. Siamo tornate alla voce così piena, ricca di personalità di Annabella Hallum, e anche appunto con un'apparenza anche molto, molto decisa, che sa il fatto suo. Dopo diversi singoli EP che abbiamo citato prima, pubblicato un nuovo singolo gennaio di quest'anno, poi seguito da qualche altro pezzo e alla fine racchiusi in un EP dal titolo Sorry I'm Not Perceptible, da cui appunto ci stiamo ascoltando, che questo è un titolo scritto in caps lock Rascal, ovvero mascalzone. Invece molto appunto tradizionalmente alt rock americano per Annabella Hallum, che invece è del Surrey in Inghilterra, e appunto una delle sorprese del Surrey Festival. Ricordiamo, questa è solo la prima puntata dedicata alla prima giornata di concerti di venerdì 27 luglio, ne faremo un'altra dedicata a sabato 28 luglio, e finisce il pezzo di Annabella Hallum e torniamo a Germano, che appunto dopo l'album del 2017 Per cercare il ritmo ha mantenuto insomma un formato di titolo simile per questo nuovo singolo pubblicato quest'anno, che si chiama Per non riprendersi. Domani andremo al cinema a vedere un film, un cinema moderno, un classico dell'horror all'americano. Non dovevi scansarti. Domani andremo in sala giochi se ti va, a giocarci un altro bacio, a rincorrerci su schermi digitali. Con le navi spaziali faremo viaggi lontani, e se ti va potremo andare allo zoo degli animali, portarli fuori dalle gabbie, tanto sono loro che non sono umani. Rincorrerci sotto le nuvole senza troppi dispiaceri, per non riprendersi, per non riprendersi mai più, mai più, mai più, mai più. A stendere i calzoni sotto gli ombrelloni, guardando i cani che rincorrono una palla, come se fossero umani, gli stringiamo le mani, perché te ne stai sempre lì a pensare, e prendi tutto come un dispiacere, è un gusto che non devi mai provare, ho comprato il gelato e l'ho fatto cadere, e se ti va potremo andare al parco con te, sederci sopra un rimorso nuovo perché solo ci ho passato, guardando gli alberi invecchiare come il tuo mio amico, per non riprendersi, per non riprenderci mai, e se ti va potremo andare al parco con te, l'ho comprato, sederci sopra un rimorso nuovo perché solo ci ho passato, guardando gli alberi invecchiare come il tuo mio amico, per non riprendersi. Alex D'Andrea, in arte Germano, la sua biografia ci dice che è nato a Trastevere ma è cresciuto a Monteverde Vecchio, che appunto per chi vive a Roma insomma c'è una bella differenza. Non riesco a trovarne l'età, ma immagino che sia piuttosto giovane. E c'è tutta questa riscoperta dalle nuove generazioni di quelli che invece sono i suoni che appartengono alla mia, insomma, infanzia, insomma, il passaggio da quei, dagli 8 più o meno ai 12 anni, Olivia insomma lo può confermare, cos'è quello che sentivamo noi alla radio. Germano, questo nuovo singolo, Per non riprendersi, chissà che appunto uscirà un altro album o perlomeno un EP, mantenendo sempre questa formula linguistica. E saremmo arrivati alla fine del cartellone della prima giornata, lo ripetiamo ancora, del 27 luglio del Siren Fest in quel de Luvast, ma abbiamo deciso di finire in allegria come abbiamo iniziato, in realtà quindi sorpresa, terzo pezzo dedicato, cioè di Cosmo, con il singolone che ha sbancato il primo pezzo pubblicato da Cosmotronic, ovvero Turbo. Sulle note di questo divertentissimo, gradevolissimo, tamarrissimo ma efficacissimo pezzo di Cosmo, Claudia Mighty Mau vi saluta e vi rimanda la prossima settimana per la seconda puntata speciale sul Siren Festival di Vasto, quinta edizione del 2018. Ciao!